quindi Marco, posso definirvi acchiappa fantasmi? Beh, non proprio, piuttosto studiosi di fenomeni atipici che moltissime persone sono solite chiamare paranormali, ma in realtà sono fenomeni che riguardano l'uomo in quanto tale e l'ambiente in cui esso vive. Noi siamo piuttosto un'associazione interdisciplinare che riunisce tantissime persone che da differenti punti di vista cercano di dare una risposta a tutti questi fenomeni. Allora, un ingegnere che cerca i fantasmi non si è mai visto, sei il primo. Oggi sono loro gli ospiti di Mine Vaganti. Mine Vaganti di Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia, eccoci qua in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con Mine Vaganti, il nostro appuntamento della domenica, due ore insieme per raccontarvi storie strane, storie curiose, storie di persone che hanno qualcosa da raccontare. Lo sapete, il nostro è un viaggio non solo nelle stravaganze, nelle bizzarrie, ma ci piace anche andare a cercare quella che è l'altra Italia, quella virtuosa, quella curiosa, quella che non fa rumore ma ha cose da dire. Anche voi potete intervenire in diretta via SMS al 349-238-6666, oppure ci trovate sulle nostre pagine Mine Vaganti di Radio 24 su Facebook, e lì aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti sfiorati. Sì, e avete sentito bene, oggi faremo un viaggio a nostro modo nel paranormale. Mi hanno autorizzato a usare questa musica, ma ridono anche loro. Do il benvenuto ai miei ospiti in studio: Marco Bilucagli, Alessandro Ferrini e Francesco Salvadori. Ciao. Ciao, ciao. Uomini in carne ed ossa che fanno parte di questo laboratorio di biopsicocibernetica. Sì. Che già il nome un po' fa paura. La mia premessa di fondo era: io non credo in nulla di ciò che diremo in questa puntata, però mi piace dare voce a chi fa cose particolari e ci mette anche passione. Poi insomma, chiacchierando un po' con voi ho capito che non siete acchiappa fantasmi, però andate là, intervenite dove ci sono fenomeni cosiddetti paranormali. Voi certo. cercate di fare cosa, Marco? Ma sostanzialmente noi cerchiamo di dare una risposta più possibile logica a tutti questi presunti fenomeni paranormali. Le persone ci possono chiamare per varie ragioni, possono avere, tra virgolette, visto fantasmi, possono avere dei sogni particolari che poi si avverano, possono avere esperienze di cosiddetta telepatia. In sostanza possono vivere tutti questi fenomeni cosiddetti paranormali, che a noi non piace chiamarli così, piuttosto li chiamiamo fenomeni di interazione psi, che fanno parte di tutta una classe di fenomeni che riguardano l'uomo e il suo rapporto con l'ambiente in cui esso si trova e con gli altri esseri viventi. Mm-hmm. Allora, tu Marco sei ingegnere? Sono uno studente di ingegneria elettronica. Alessandro, un sociologo? Sì, ricerca professor sociale. Perfetto, e Francesco un fisico. Un fisico, quindi insomma gente razionale, ecco, mi piace usare questo termine. E fate parte di questo laboratorio, che cos'è, Francesco, questo laboratorio di... Alessandro, scusa, sarà un gioco, Sì, sono io col paranormale con i nomi oggi, sappiatelo. Alessandro, questo laboratorio come nasce, dove nasce, chi siete, perché non siete solo voi tre, immagino i membri. Siamo molti di più. Il laboratorio è un'associazione no profit, un'associazione culturale, nasce a Bologna nel 2001, fondata dal dottor Enrico Marabini, un medico, ed altri ricercatori che si occupano da molti anni di queste tematiche prima della fondazione del laboratorio. Dal 2001 il laboratorio svolge indagini riguardo appunto ai fenomeni cosiddetti paranormali e non solo. Quindi io penso di avere un fantasma in casa? Certo, nel senso no, siamo nel ramo delle ipotesi. Sento delle voci, vedo delle ombre e posso telefonare, posso chiamarvi? Certo, sì, offriamo un servizio di consulenza gratuita per le persone che ci chiedono appunto di poter dare delle risposte, di cercare di dare queste risposte per esempio ad un fantasma in casa. Analizziamo il caso, lo affrontiamo, facciamo i test specifici e proprio per la prospettiva interdisciplinare diverse figure a seconda del caso specifico intervengono. Per esempio potremmo fare tutta una serie di misure ambientali, e questo nostro responsabile Francesco è adibito a tale scopo, che ci possono dare delle spiegazioni razionali, perché ovviamente siamo un'associazione che opera a livello scientifico, rasoio di Occam, docet, bisogna cercare la spiegazione più semplice prima di formulare determinate ipotesi. Andiamo a vedere se ci sono delle spiegazioni razionali ed eventualmente andiamo a cercare l'oggettivazione di determinate eventi. Possono essere, se la persona ci dichiara di vedere un fantasma, verifichiamo prima di tutto che non sia una persona psicolabile. E già lì, insomma, altro che laboratorio, cioè bisogna intervenire bene. Assolutamente. Però, quello è il primo, avete anche lì un vostro... Abbiamo consulente. Il dottor Giorgio Gagliardi, che è uno psicologo, uno psichiatra, che è adibito appunto alle ricerche e alle misurazioni di tipo psicofisiologico. Oppure potremmo intervenire, oltre a verificare appunto questi parametri, verifichiamo se effettivamente queste cosiddette apparizioni sono oggettive, le fotografiamo. Utilizziamo il nostro responsabile, il mio superiore, Daniele Gullà, responsabile del settore immagini, potrebbe fare delle fotografie, oltre che nel range del visibile, anche nel range di differenti lunghezze d'onda, infrarosso, ultravioletto, per verificare se effettivamente questi fenomeni apparizionali di fantasmi sono oggettivabili o meno. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Quindi voi ci credete ai fantasmi? Noi siamo essenzialmente degli scienziati. Infatti io volevo mettere alla prova il fisico qua. Cioè, quello che uno scienziato, l'approccio che ha è quello di essere curioso verso quello che c'è nel mondo, no? Verso i fenomeni, cercare di interpretarlo, di capirlo e di dargli una spiegazione. Questo tramite gli strumenti, tramite la tecnologia. Noi facciamo uso anche di una tecnologia molto avanzata, cioè tutto, cerchiamo di avere di oggettivare quello che è la realtà tramite gli strumenti che vanno molto oltre quella che è la percezione umana. Quindi, che ne so, una telecamera all'infrarosso ci permette di vedere delle cose che con gli occhi non possiamo vedere, un microfono ultrasensibile di sentire cose che normalmente non sentiremmo. Poi, una volta che abbiamo raccolto i dati, siamo in grado di capire. Ecco, questo è una cosa spiegabile nell'ambito di quello che la scienza conosce. Questo no. Vediamo se nel futuro riusciamo a analizzarlo, se riusciamo a contestualizzarlo, raccogliamo dati e interpretiamo quello che fanno gli scienziati. Perfetto, chiaro, no? Non hanno risposto alla domanda se ci credono o meno, però insomma hanno dato... No, perché uno scienziato non crede, uno scienziato analizza. Bravo, questa ce la scriviamo, ragazzi. Il fantasma di Azzurrina è un po' il vostro pezzo forte, certo. Anche insomma vi ho conosciuto in questi giorni perché sono usciti alcuni articoli su questi studi che avete fatto, c'è un progetto Ghost. Sì, il progetto Ghost è un progetto che è nato nel 1998 in seno di un'associazione precedente di cui il nostro direttore della sezione ricerca Michele Di Nicastro e il nostro direttore del settore immagini Daniele Gullà facevano parte. Nel 1998 questo progetto che è nato e si prefiggeva di studiare i castelli, le dimore ritenute infestate. Un approccio interdisciplinare che serviva appunto ad oggettivare questi determinati fenomeni presunti infestatori e ha avuto come oggetto Montebello e tra l'altro anche il famosissimo castello di Bardi. Le cose interessanti, gli elementi più interessanti che sono venuti fuori nel corso degli anni sia da Montebello che da Bardi sono rispettivamente un reperto acustico, una serie di reperti che poi acustici, ascolteremo, e una fotografia molto interessante, la prima penso a livello mondiale, la fotografia termica di un presunto busto fantasma. Ci stai credendo in questo momento? Ci stai credendo? Sto credendo che esiste, sto credendo che la fotografia c'è ed è... Mm-hmm. Ed è concreta. Ed è lì, insomma, lo scienziato, quindi c'è un qualcosa e lo deve spiegare. Diamo il sito del laboratorio che è www.biopsicocibernetica.org. Mine vaganti. Eccoci qua, Mine Vaganti, con me alcuni dei ricercatori del laboratorio di biopsico-cibernetica. Francesco, studiate anche i cerchi nel grano? Ma questo non fa parte, diciamo, delle tematiche tipiche del laboratorio. Detto questo, beh, ognuno può avere anche la sua opinione. Per esempio, la mia opinione, dagli esperimenti che sono stati fatti, esperimenti di cercare di riprodurre questi cerchi del grano, sinceramente non ci trovo niente di anomalo. Potrebbero benissimo essere fatti da qualcuno umano che probabilmente si vuole divertire. Sono state fatte diverse prove, non ci trovo niente di interessante, diciamo. E noi ci andiamo in un campo di grano. Se vedi uno che mangia per tre e un altro che non ha niente per sé, non ci pensare, non sono affari tuoi. Mamma giustizia ci pensa per te. Ci facciamo accompagnare dai nomadi per parlarvi di questo campo di grano. Si parla di giustizia e lo si fa con un quadro, con un dipinto realizzato su una tela particolare, perché questa tela è proprio un campo arato di 33.000 quadrati e il pennello è un trattore che tira un aratro. Lui si chiama Dario Gambarin, il pittore veronese che ormai da anni è stato adottato da Bologna, è uno dei massimi esperti, forse l'unico al mondo di land art fatto appunto col trattore, perché i suoi quadri sono bellissimi, hanno solo una caratteristica che li rendono difficilmente visibili, perché si possono guardare e ammirare solo dall'aeroplano. Ma abbiamo già caricato sulle nostre pagine in Facebook la sua ultima opera realizzata proprio ieri. Si parla di giustizia ed è una bilancia tratteggiata appunto su questo campo. E Dario è qua con noi. Ciao Dario. Salve, salve a tutti, buonasera a tutti, salve. È una bilancia, hai voluto parlare di giustizia in questa tua ultima opera d'arte, e come mai questa scelta? Insomma, volevo, diciamo, siccome siamo a ridosso del 31esimo anniversario della strage di Bologna del 2 agosto, ho pensato bene di rendere di ricordare, ecco. E quindi insomma la bilancia come giustizia. Sì, ma... volevo dire una cosa, è una bilancia un po' pencolante, ecco. E non è un errore del pittore, è voluto. No, è una bilancia pencolante e leggermente asimmetrica, la difficoltà stava proprio nel farla non perfetta, però non troppo imperfetta. Ok, questa è l'opera, vi ripeto, Mine Vaganti di Radio 24 su Facebook, potete vedere l'immagine, l'ultima, perché Dario ha realizzato quella che ha fatto un po' il giro del mondo, è stata il faccione di Barack Obama in occasione del G8. Del G8 del 2009. Certo, esatto, ecco. E tante altre cose fatte con questa tecnica particolare, nel senso che tu ti metti a bordo del tuo trattore senza picchetti sul terreno, senza laser, senza computer. No, oddio, mi faccio prima uno schizzo su un foglio di carta di quello che voglio fare, ecco. E dopo niente, prendo questo trattore, vedo il campo, comincio a girare a vuoto, cerco un attimo di prendere dei riferimenti così mentali, ma poi entro, come si può dire, quasi una trance artistica e finisco l'opera. Quindi un paio d'ore, questa qui è durata circa due ore e mezza, ecco. Il problema nel fare queste cose è anche la difficoltà di, non è permesso di fare errori, perché una volta che si è toccato il terreno l'opera è rovinata. Certo. Un giorno solo, due giorni, adesso in quel campo lì domani credo che sia già seminata. È vero, perché è certo, non solo è difficile da vedere come opera, ma è effimera, no? Rimane. Effimera, dura solo una giornata. Il tempo, giornata, quando l'ho finita, naturalmente il campo viene arato, spianato, arato e ricoltivato. Dario, i tuoi vicini di campo, i contadini della zona, si sono abituati a vedere questo trattore che di andare dritto fa curve, fa cose strane. Ormai incuriosisco, probabilmente. ovviamente ormai mi hanno visto un po' in giro e allora diventano curiosi, mi chiedono cosa sto facendo, però non capiscono cosa sto facendo, perché non lo vedo e non lo vedo neanch'io, non lo so, cioè io lo so, ma non lo vedo, non si può vedere. Certo, perché è una cosa che si fa così, solo con l'immaginazione, ecco, sì, io lo immagino, ecco, questa è una cosa che mi emoziona ancora ogni volta che la faccio, ecco. Grazie Dario, complimenti, perché insomma, al di là della tecnica molto particolare, ci sono sempre dei messaggi molto belli, e il bello anche di questi messaggi che partono dalla terra, quindi un significato ancora sì, più forte, ancora più profondo. Sì, esattamente. Buon lavoro. Grazie ancora. Ciao, grazie, Dario. Grazie, buon lavoro. Dario Gambarin su Facebook, potete vedere le sue opere sulle nostre pagine, ma torniamo con i nostri ospiti, il laboratorio appunto di biopsico-cibernetica, un laboratorio aperto a tutti, no? Nel senso che voi siete dei tecnici, però anche solo semplici curiosi si possono associare o certo, far parte. Certo, sì, è un laboratorio ovviamente aperto a chiunque voglia iscriversi alla nostra associazione. Tra le varie cose che noi organizziamo è il primo sabato di ogni mese, organizziamo delle conferenze su determinati temi specifici, vari temi, aperte al pubblico, ovviamente totalmente gratuite, quindi chiunque voglia seguire, chiunque voglia interessarsi su determinate tematiche può parteciparvi senza alcun tipo di problema. Mm-hmm. Ecco, prima di entrare, adesso arriviamo anche da Azzurrina, ma ricevete molte telefonate di italiani che pensano di avere un fantasma in casa? Siccome siamo più tecnologici, riceviamo molte mail. Ecco. Molte mail, ok, sì, certo. Sì, sì. E cioè nel senso. Molti contatti, assolutamente. C'è da dire a onor del vero che la grandissima maggioranza delle segnalazioni che riceviamo poi si rivelano assolutamente o false, bufale, oppure riconducibili ovviamente a fenomeni naturali. Anche qual è il fenomeno naturale che più spesso viene scambiato per una presenza di un fantasma? Beh, di solito ombre, strani giochi di luci, oppure qualcosa di molto più complesso, ma assolutamente spiegabile, studiato, allucinazioni che possono essere autoindotte, oppure eterindotte da parametri ambientali specifici di vario tipo, documentati da studi di laboratorio o d'oltreoceano, ecco. Mm-hmm. Ecco, qui adesso le domande, ragazzi, sono troppe. Ci rimane male l'italiano medio che vi chiama perché pensa di aver un fantasma in casa e invece magari è solo un gioco di luce o una tubatura che fa un rumore strano? È il sociologo Alessandro. Diciamo che ci sono due tipologie di soggetti, come minimo, se non qualcuna di più. C'è il soggetto che vuole avere chiarezza sui fenomeni, per cui è una persona anche equilibrata, la quale accetta la spiegazione in maniera assolutamente serena e tranquilla. Poi ci sono dei soggetti che rappresentano sono dei tipi psicologici molto particolari, i quali invece hanno la tendenza a ricercare il clamore dei loro specifici casi, e allora nel caso in cui i loro casi vengano smontati poi con delle spiegazioni facenti riferimento appunto a fenomeni di tipo, chiamiamolo, naturale, ci restano male e a volte si arrabbiano anche. Ma anche perché può essere, cioè, ha fatto la fortuna anche di luoghi turistici, la presenza di un fantasma, magari se ce l'ha in casa, non lo so se fa aumentare o diminuire il valore immobiliare appunto di una casa, lì poi sono discorsi secondari. Ma andiamo da Azzurrina, che forse è il fantasma, uno dei fantasmi più famosi in Italia. Siamo nel castello di Montebello, sì. Provincia di Rimini. Provincia di Rimini, sì, frazione di Toriana. Di Toriana, ecco, vicino Sant'Arcangelo, okay, di Romagna. La leggenda narra che, proprio in sintesi, la leggenda narrava che questa bambina, nata Albina, figlia dei proprietari del castello dell'epoca, fosse a un certo punto il solstizio d'estate sparita nel nulla misteriosamente, e da allora la leggenda narra che questa bambina vaghi nel castello parlando e urlando il nome della sua mamma, chiamandola mamma. Ok, questa è la leggenda, come questa tante leggenda, altre in tanti altri castelli. Assolutamente. Ma qualcuno ha mai visto qualcosa o qualcuno ha mai ascoltato qualcosa? Allora, diciamo che ci sono state delle esperienze soggettive dei proprietari del castello già nel corso del Novecento, E da quelle, e oltre che appunto dalla leggenda popolare, il laboratorio ha deciso di interessarsi al caso, ricercando un'oggettivazione di questo, di questi fenomeni che prima erano raccontati, quindi facevano parte dell'aneddotica. E quindi dalla fine degli anni 90 sono iniziate le indagini vere e proprie e hanno portato a dei risultati molto interessanti, dei risultati acustici, delle registrazioni acustiche che presentano una voce femminile, presumibilmente di bambino, allora, di bambino o di bambina, quindi per essere precisi, perché fino a una certa età è indistinguibile il genere della persona appunto che emette il suono. Quindi queste voci sono state registrate e ascoltate? Okay, assolutamente sì. Quindi possiamo farla ascoltare. Quella che ascolteremo adesso è la voce del bambino o bambina registrata. Potrebbe essere azzurrina, sentiamo un po'. Molto interessante. Era questa? Sì, ok. Sì, sì. E poi dopo partiva anche il commento. E dopo recuperi Fantasma 1. Ero lui, ok. E, sembra anche un gatto, però adesso faccio subito il conduttore un po' scettico. E ma invece. In realtà queste voci, il questi fisico. Reperti hanno delle caratteristiche un po' strane. Nel senso che sì, le vai ad analizzare con del software e capisci, puoi oggettivare il fatto che vengono emesse certe lettere, certe parole, ma le frequenze, la composizione di questa voce non è propriamente quella umana, diciamo. Non è esattamente quello che ci si aspetterebbe se tu registrassi una voce di un essere umano. Ha qualcosa di un po' diverso. Però non è cosa neanche significhi? Il gatto. Non è neanche il gatto. Assolutamente, nemmeno nonostante siano state fatte diverse obiezioni in questo senso, a livello strumentale e di differenti analisi compiute anche da istituti indipendenti di elettroacustica hanno confermato che si tratta a livello strutturale di voci umane, ma che allo stesso momento presentano, come ha detto bene Francesco, caratteristiche che non sono, che non possono essere riconducibili a voci umane. Ecco, poi dopo ne ascolteremo un altro frammento e tenteremo anche di indovinare quello che potrebbe aver detto. Mine vaganti. Non sopporto più di sentirmi dire che non è questo il pezzo da interpretare. Io oggi sai che faccio, scrivo come mi pare. Libero ad Azzurrina, mi sembra insomma così doveroso, visto che l'abbiamo resa protagonista anche di questa puntata. Voi siete reduci da due giorni direi di ricerche che avete, sì, fatto all'interno del castello, e non tanto, se ho capito bene, facendo ricerche sul fantasma, certo, ma sui visitatori? Sì, abbiamo fatto uno studio unico a livello italiano, non è mai stato fatto prima in Italia, è stato fatto all'incirca negli anni 2000 in Inghilterra dal professor Weisman. Noi abbiamo fatto questo studio e abbiamo voluto indagare le correlazioni a posteriori che possiamo ottenere tra la credenza delle persone, eventuali caratteristiche psicologiche e psicofisiologiche, e le esperienze soggettive che le persone riportano nel castello. Queste persone hanno visto qualcosa, hanno ascoltato, hanno sentito le voci? Sì, sì, ci sono persone che hanno riportato soggettive esperienze, esperienze di tocchi, esperienze di ombre viste, cali di temperatura, e adesso saremo impegnati nella valutazione di tutti questi dati e nell'analisi statistica. Oh, ok. Di tutto questo. Andiamo ad ascoltare invece questa voce che è un po' forse... ok. Forse è quella di prima. È sempre Fantasma 1? È lei? Sì. È lei, questa è azzurra. Aspetta, perché dovrebbe dire una parola qua? Allora, vediamo un po' se riuscite voi a cogliere una parola. Non è questa? Sempre quella di prima. Aspettate, qui è lì. È sempre la 1. Fammi sentire la 1. Quale? Ok, è sempre quello che ho definito il gatto di prima. Sì. In verità io non ho mai sentito un gatto chiamare Mamma, allora, naturalmente non stiamo parlando di una voce umana al 100%, questo mi pare abbastanza chiaro, sentendola anche a orecchio. Sta di fatto che le analisi elettroacustiche compiute dimostrano che non si tratta di un gatto, non si tratta di nessun animale, di nessun uccello, ma si tratta di una vera e propria voce che presenta caratteristiche in parte umane, nel senso che presenta delle corde vocali, ma non presenta un condotto fonatorio. In poche parole, questa voce sembra essere prodotta per certi versi da un condotto fonatorio, per cui da una laringe, da una bocca di dimensione enorme, superiore ai 3 metri. Da qui noi abbiamo immaginato che appunto il condotto fonatorio fosse costituito dalla stanza stessa in cui si è prodotto il fenomeno, e quindi in qualche modo la voce si è prodotta nell'ambiente senza nessuno strumento vero e proprio. Tra l'altro, se posso aggiungere, le analisi effettuate dai due istituti di cui ha parlato Marco prima hanno dimostrato che non si tratta assolutamente né di una registrazione mandata in riproduzione sul luogo, né di una manipolazione del reperto, quindi assolutamente genuina. Quindi non è la voce del proprietario del castello. Assolutamente. No. L'indotto di Azzurina può essere anche interessante. È stata anche fotografata? Sì, Azzurina, la cosiddetta Azzurina nello specifico, l'anno scorso, in un'indagine promossa dal nostro responsabile del settore immagini, è stata effettuata una fotografia dal sensitivo e fotografo presente a quell'indagine, Mattia Mascagni. Sì. Effettuata una fotografia, quelle che noi definiamo fotografie a largo spettro, con una macchina fotografica modificata, sensibile all'infrarosso e all'ultravioletto, è venuta fuori una figura. Una figura con sembianze vagamente antropomorfe, ma ci terrei a sottolineare l'interesse di questo reperto sta sia nella figura, ma anche nel fatto che nell'area adiacente alla figura sembra esserci un elemento d'arredo, nello specifico la gamba di un tavolo, che nella realtà non è presente in quell'ambiente. Queste foto sono sul vostro sito? Le foto si possono osservare sul sito del sensitivo www.mattiamascagni.it, che è l'autore di queste fotografie. Perfetto. Che sono state periziate e validate, autenticate. E continuo a non credersi, però insomma, questa è sono scienziati. C'è chi crede e chi non crede. Esatto, io mi gioco quella parte. Noi né uno né l'altro, okay. Noi osserviamo. Adesso andiamo a scoprire altri fantasmi, in particolare italiani che si sono trasformati in fantasmi. Tanto di noi si può fare senza. E chi vuoi che noti mai la nostra assenza? Ragazza, tu sei bella ogni giorno di più, e non farti prendere dalla sonnolenza, ci interessa, no? Lui è Paolo Conte, Fuga all'inglese, il pezzo che ci serviva come colonna per il prossimo ospite. Italiani che diventano fantasmi, come magari abbandonando l'Italia, magari facendo perdere le tracce di sé, o magari semplicemente cambiando vita, ma dichiarandolo senza nascondersi. Lui ormai è un po' il guru degli italiani che vogliono cambiare vita, e grazie al suo cambiamento di vita, adesso di professione, insegna, appunto, trasmette, dà le giuste dritte per chi ha voglia di, per esempio, abbandonare l'Italia. Il tutto è nato con un sito www.italiansinfuga.com, recentemente anche un libro intitolato È facile cambiare vita se sai come farlo, edito dalla casa editrice Burr. Diamo il benvenuto direttamente dall'Australia ad Aldo Mencaraglia. Ciao Aldo. Buongiorno a tutti dall'Australia, ciao, come stai? Credo che buongiorno sia parola grossa. Che ore sono lì adesso? È 1:30 del mattino, esatto. È certo, quindi sei avanti. Aldo, la tua vita già è un film, ce la vuoi sintetizzare? Come sei arrivato lì? Da dove sei partito? Io sono partito da Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo, sono cresciuto lì, poi a 19 anni sono andato a studiare in Inghilterra all'università, mi è piaciuta un sacco, quindi sono rimasto lì in Inghilterra per 10 anni, ho conosciuto mia moglie. poi per lavoro ci siamo trasferiti prima in Cina, poi a Taiwan per un anno, dopodiché abbiamo deciso che non volevamo tornare in Inghilterra, siamo venuti qua in Australia nel 2002, l'Australia è la patria di mia madre e quindi niente, siamo arrivati qua nel 2002 e siamo ancora qua felicissimi. Siete lì felicissimi e adesso date le istruzioni, suggerimenti sul come cambiare vita. Veramente tu sei diventato un punto di riferimento col tuo blog, centinaia di persone che ti scrivono e chiedono informazioni, chiedono come si può fare, ma si può davvero insegnare a cambiare vita? Sì, io fondamentalmente leggevo questo nei primi anni 2000 il forum Italians di Stevanini sul Corriere. Sì. E mi ha sempre aiutato a tenermi in contatto con l'Italia e con gli italiani. E cosa leggevo alcuni anni fa era praticamente tanti italiani stavano facendo fatica sul mondo del lavoro e cercavano nell'estero la soluzione ai loro problemi. Allora mi sono detto, vediamo di mettere a disposizione la mia esperienza. Io sono adesso 20 anni all'estero e ho iniziato appunto questo blog Italians in Fuga e pian piano è cresciuto e poi sempre più lettori mi stanno appunto chiedendo informazioni su come fare. Io ho iniziato a mettere a disposizione la mia esperienza personale, però poi intervistando centinaia di altri italiani che adesso si trovano all'estero e gentilmente condividono la loro esperienza su come hanno fatto. E poi anche il fatto che la vita all'estero non è un paradiso in pratica, quindi ci sono anche difficoltà che vanno prima conosciute e poi affrontate. Ed appunto sia con il blog che con il libro che voglio condividere tutte queste esperienze ed insegnamenti. Certo, ecco, ma quanti sono in verità quelli che alla fine cambiano davvero vita, su 100 persone che te lo chiedono? È difficile a dirsi perché effettivamente in tantissimi lo sognano, poi metterlo in pratica è molto molto più duro perché bisogna avere molta determinazione, bisogna avere magari le professionalità giuste, la conoscenza della lingua eccetera eccetera, quindi è difficile dirlo. L'unica cosa che sappiamo è che secondo le cifre ufficiali ci sono 50-60 mila italiani che vanno all'estero ogni anno, quindi io ho chiesto ai lettori del mio blog di fare un piccolo censimento. La maggior parte di essi sono fondamentalmente tra i 25 e i 35 anni, quindi magari coloro che si stanno affacciando sul mondo del lavoro o si sono già affacciati, hanno il primo o secondo lavoro e si rendono conto magari che stanno facendo un po' di fatica, quindi vedono nell'estero la possibile fuga. Certo. Però effettivamente è difficile tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare. Assolutamente. Aldo, in conclusione, qual è la prima domanda che ti fanno di solito? Come trovare lavoro. Ah, è quella, okay. Il lavoro è lo scoglio principale, è la cosa sulla quale si concentrano in primo luogo. Secondo me bisognerebbe girarla e concentrarsi prima sulla conoscenza della lingua. Il lavoro, dopo che si conosce la lingua, è relativamente più facile. Poi ovviamente bisogna avere le professionalità che sono richieste dai mondi del lavoro all'estero. E tu adesso vivi di questo? È diventata la tua professione far cambiare la vita agli altri? Da poche settimane mi sono dedicato a tempo pieno a Italians in Fuga, semplicemente perché mi appassiona un sacco, mi dà molte soddisfazioni e quindi niente, da poche settimane sono a tempo pieno, quindi ci sto lavorando 24 ore al giorno. E come va? Cioè, nel senso, al di là del lato economico che non mi interessa, cioè, non senti un po' il peso di tante vite sulle tue spalle? Sì e no, io sono dell'idea che in pratica la decisione di andare all'estero è la responsabilità sia dell'individuo, quindi io cerco di aiutare il più possibile e il responso è molto positivo da quelli che mi scrivono. La questione, secondo me, ultimamente è il fatto che ognuno deve assumersi la responsabilità della propria vita, quindi io sì aiuto il più possibile, però poi sta a voi e metterlo in atto e lavorare un sacco. Grazie davvero Aldo, ricordiamo il sito, il blog italiansinfuga.com, abbiamo già linkato l'indirizzo nelle nostre pagine di Facebook, oppure il libro Casa Editrice Burr, il titolo è Facile cambiare vita, se sai come farlo. Ciao Aldo, puoi andare a dormire. Ciao, ciao, ciao a tutti. Mine vaganti. Torniamo a parlare di fantasmi o sedicenti tali, insieme ai ricercatori del laboratorio di biopsicocibernetica di Bologna, però nessuno di voi è di Bologna, quindi questo insomma Bologna è un po' la sede, però poi siete da tutta Italia. Siamo in radio, quindi ok, la voce di Azzurina ve l'abbiamo fatta ascoltare, adesso vedere le foto è un po' più complicato, però noi ci proviamo perché... Cerchiamo di spiegarle. Eh sì, insomma uno poi alla fine crede in quello che vede. Cambiamo castello, certo. E cambiamo fantasma. Sì, sempre nell'ambito del progetto Ghost dei ricercatori, del nostro direttore della ricerca Michele Di Necastro e di Daniele Gullà. Loro ci credono? No, l'approccio è sempre quello. L'approccio è sempre quello, okay. Di tutta l'associazione. Ci ho provato, scusami, ti ho interrotto. Nel 1999 è stata effettuata un'indagine appunto da Michele Di Necastro e Daniele Gullà nella fortezza di Bardi, in provincia di Parma. Sì. La fortezza di Bardi aveva alle spalle una storia, una leggenda di questi due amanti, questo amore tormentato, ostacolato, il suicidio dell'amante della donna e il conseguente suicidio dell'amante uomo. E si dice che dopo questa morte tragica lo spirito, il fantasma cosiddetto dei fantasmi degli amanti si aggirasse nel castello. Nel 1999, fotografia unica a livello italiano e anche mondiale, è stata registrato in un frame mediante l'utilizzo di una termocamera, una macchina che rileva variazioni di temperatura piuttosto che variazioni di luminosità ottica, una figura antropomorfa rappresentante un cavaliere, mezzo busto, girato, e che a livello concreto rappresenta una variazione di temperatura rispetto alla temperatura ambientale, su segnalazione specifica delle sensitive. In sostanza le sensitive dicevano di avvertire una presenza, è stata utilizzata questa termocamera ed è stata fotografata da Daniele Gullà questa fotografia. Ecco, però adesso qui scusatemi perché... Capisco quando si parla di luci, di audio, di spettri nel senso di variazioni di onde eccetera eccetera, però voi siete scienziati, cioè la sensitiva no, cioè il sensitivo cosa c'entra con la scienza? Sociologo? Beh, diciamo che è interessante questo fatto. Perché noi, pur rifacendoci e essendo orientati all'oggettivazione dei fenomeni, tendiamo anche a fare affidamento su quella che è la soggettività dei soggetti. Non a caso andiamo, per esempio, dove riceviamo delle segnalazioni di soggetti che hanno provato delle esperienze sulla loro pelle. Quindi in qualche modo ci affidiamo alla soggettività. Allo stesso tempo abbiamo preso in considerazione il fatto che esistano delle persone più sensibili di altre a questi fenomeni. E in base a questo, il caso di Bardi direi che è emblematico, abbiamo seguito le indicazioni di due sensitive, propriamente diciamo cosiddette sensitive, che indicavano un punto preciso di un'ala del castello segnalando la presenza di un qualcosa. Anche perché la nostra teoria di fondo, il nostro punto di partenza è che tutti questi fenomeni riguardano l'uomo, l'essere umano in quanto tale. Nella sua soggettività può avere fenomeni di tipo allucinatorio, però esistono studi documentati, fatti documentati, che l'allucinazione e la soggettività può implicare un qualcosa di concreto a livello ambientale. Ok, lì c'è un'altra foto, l'andremo a vedere tra pochissimo, vedere sempre radiofonicamente parlando. Daniele, ti abbiamo dato qualche spunto per un prossimo video? Assolutamente sì. Ecco, prendi nota. Allora, intanto ciao, do il benvenuto a Daniele Selvitella, che insomma, detta così, Daniele, chi sei? Un emerito sconosciuto, ma basta dire Daniele Doesn't Matter, che in parte per tanti rimane un emerito sconosciuto. In verità ormai sei una star della rete. Cos'è successo, Daniele, nella tua vita? Chi sei e cosa hai combinato? Ma guarda, diciamo che come tutte le cose inaspettate si comincia sempre per scherzo. Io ho fatto un percorso di studi che non c'entra assolutamente quasi niente con quello che ho iniziato a fare sul web. Ho studiato come grafico pubblicitario, mi sono laureato in scienze del design e poi niente, un giorno navigando su internet ho detto, ho visto che YouTube offriva la possibilità di aprire un canale e ho detto perché non provare a far parte di questo mondo e dare il mio contributo. E da lì è nato questo. Mamma, Daniele mi dice le cose brutte. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Doesn't Matter. Adesso cosa c'è che non va? Allora, sta sigla la vogliamo far partire? Wow, wow, piano fratello, mo la mandiamo in onda. Occhio gente, ora si ride. Parte il podcast di Daniele. Questo è il canale di Daniele. Doesn't Matter. Non ne puoi proprio fare a me. Oggi vorrei invitarvi a ragionare su un argomento molto delicato, il terrorismo mediatico. Che cos'è il terrorismo mediatico? Tecnicamente è quando i media danno notizie distorte, o non del tutto certe, per poter ottenere ascolti e attenzione, provocando così l'agitazione degli ascoltatori. Ma perché questo? Partiamo dal presupposto che la razza umana è morbosa. Oh sì, io sono morbidoso. Ho detto morboso, quindi siamo tendenzialmente più attratti dalle cose sadiche. Ad esempio... 100.000 click, 100.000 click sulle sue pagine. Ogni venerdì aggiorna il suo canale su YouTube con un nuovo video. Daniele, un successo veramente inatteso. Un po' lo stile è quello delle Iene per certe, cioè così un po' per certe riprese, per certe inquadrature, però diciamo di sì, più che altro lo stile del taglio del video, che è un, diciamo, uno stile americano che hanno adottato le Iene e ho adottato anch'io. Ok, e ci sei tu che fai 8.000 personaggi diversi e scegli una tematica, cioè, c'è tanto lavoro e questa è la cosa che mi ha sconvolto. Sì, diciamo di sì, parecchio lavoro, perché comunque facendo una puntata a settimana devo... appunto ogni settimana trovare un nuovo argomento da trattare, preparare le riprese, il montaggio, fare i trucchi per i personaggi e via dicendo. Fai tutto tu? Sì, assolutamente da solo. Ok, qui ho una domanda molto da Radio 24, e di cosa campi, scusa? Cioè, ti dà da mangiare questa cosa? Allora, vabbè, innanzitutto campo nel mio lavoro di svolgo la professione di web designer e poi oltretutto faccio i video principalmente per il mio divertimento personale, ma soprattutto anche perché YouTube offre la possibilità ai partner, quindi agli utenti che riescono a raggiungere elevate visualizzazioni e numeri di iscritti, di essere retribuiti tramite la pubblicità che verrà inscritta sopra i tuoi video. Ok, perfetto. E noi tra l'altro abbiamo estrapolato una parte non censurabile, nel senso che i testi sono molto irriverenti, sono video, quindi va visto, perché davvero c'è molto lavoro anche di trucco e di recitazione che è divertente, però sei irriverente, la tua è anche una satira o è solo una comica? No, assolutamente ogni video cerco di trasmettere un messaggio ben preciso che può essere a volte negativo o a volte positivo. Non mi fermo ad analizzare un argomento, ma cerco di vederlo sotto un altro punto di vista, quindi offrire in questo modo ironico una chiave di lettura diversa dell'argomento trattato. E il nome Doesn't Matter da dove l'hai preso? Iniziato il tutto con nelle storie che racconto ogni tanto inserisco nel montaggio video delle scene dei classici fenomeni di YouTube. Chi sono i fenomeni di YouTube? Sono quelle persone che guadagnano un sacco di visualizzazioni compiendo degli atti fondamentalmente stupidi. Ah, ok, perfetto. Quindi io analizzo questi personaggi all'interno delle mie storie e cercando di rispondere alla domanda come mai questa gente, pur facendo una figura barbina, vuole comparire su internet. E la risposta è doesn't matter, non importa. Non importa. Ho pronunciato doesn't matter volutamente in modo sbagliato per calcare sempre il concetto di non ha importanza come si appare. Doesn't matter.it, questo è il link, l'abbiamo già caricato sulle nostre pagine in Facebook. Daniele, un'ultima domanda: e questi due denti un po' vampireschi, è un trucco cinematografico? No, questa cosa mi perseguita dal primo video. Non è nessun trucco, sono così di natura. Però un bel tocco, cioè nel senso che ti rende immediatamente riconoscibile. Sì, esatto, diciamo che è entrato a far parte dei miei tormentoni. Tra i tuoi fan, tantissimi adolescenti, la cosa ti piace o la cosa ti preoccupa? Guarda, ci sono tanti adolescenti, ma nonostante questo c'è proprio un pubblico vario. L'età media parte sì dai 12 anni, ma arriva anche fino a un pubblico di 60 anni a volte, in alcuni casi. Perfetto, e non sono andato a vedere venerdì che video hai caricato, qual è il tema? Questo venerdì ho saltato perché mi sono preso un po' di vacanza, non mancando mai per tutto l'anno ho deciso di andare in pausa per 3 o 4 puntate. Va bene, no, ci rivediamo a settembre. Grazie davvero Daniele, complimenti, ciao. Grazie a te, ciao. Ciao. Mine vaganti. Ancora buona domenica da Federico Taddia, questo è Mine Vaganti, ancora un'ora insieme, sarà un'ora in cui tenteremo di collegarci con gli Stati Uniti per correre insieme ad Alex Bellini, entreremo nella cronaca locale, faremo suonare delle piante, andremo a scoprire un particolare orto sulle colline bolognesi, insomma tantissime altre cose. Vi ricordo Mine Vaganti di Radio 24, la nostra pagina ufficiale in Facebook dove abbiamo caricato tutti i link, alcune delle immagini di cui abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione. Con me in studio gli ospiti del laboratorio di biopsicocibernetica, ricordiamo subito il sito www.biopsicocibernetica.org, cacciatori di fantasmi atipici perché l'approccio è quello scientifico, cacciatori di fantasmi ormai l'abbiamo usato come così, come etichetta, fatevela la vostra, credo che vi accompagnerà anche l'immagine dei Ghostbuster con l'aspirapolvere sulle spalle, quella roba lì, anche perché voi usate comunque tecnologie particolari, quindi vi muovete con telecamere, strumentazioni. Sì, siamo, come avevo detto, abbastanza aggiornati dal punto di vista tecnologico, quindi sì, telecamere, rilevatori di parametri ambientali, registratori, soprattutto molto software, perché aiuta molto nell'elaborazione e insomma ci aiuta molto a vedere e quello che non si vede fondamentalmente con i nostri sensi. E il sito e il portale è il punto di riferimento per chi volesse informazioni, per chi pensasse, insomma, per chi pensi di avere qualcosa in casa, quindi può comunicare con loro. Ricordiamo ancora che è un'associazione no profit, quindi voi non campate sul paranormale, non mangiate di fantasmi, no. Questo, no. Spendete, basta, questa è la passione, noi ci piace raccontare le passioni qui a Mine Vaganti. E, prima di salutare, ci chiudiamo con una foto che non c'entra nulla con i castelli o con le case, ma è un'immagine particolare. Marco, a te il compito anche di descriverla, perché certo, ce la devi far vedere in radio. È uno dei primi casi affrontati dal laboratorio, si tratta di una fotografia effettuata i primi anni 90, ovviamente con una macchina fotografica di tipo analogico, con una pellicola. La fotografia è una storia particolare e un contesto abbastanza particolare, perché è stata effettuata durante una festa in ricordo di una persona purtroppo deceduta in un incidente stradale. Durante questa festa i suoi amici, che avevano un gruppo musicale, stavano suonando per lui in suo ricordo. Tra le varie fotografie scattate durante quella serata è emersa una particolare. In una parte della fotografia emerge un volto con caratteristiche abbastanza evidenti. Su questo volto sono state fatte delle operazioni specifiche di confronto antropometrico dal nostro direttore del settore immagini, ricerche biometriche, Daniele Gullà. Sono dei confronti basati sulla distanza, il rapporto di distanze di specifici punti nel volto, inserito all'interno questi dati di un database di oltre 10.000 volti, database analoghi utilizzati dalle forze dell'ordine di tutte le nazioni, una comparazione e un risultato di somiglianza della fotografia del ragazzo in vita con il volto ripreso nella fotografia vicina al 99%, il volto assolutamente più somigliante. Perfetto, io che nella foto che tu mi hai fatto vedere il volto non l'ho neppure visto, cioè, non, cioè probabilmente io vado al di là del non credere, cioè proprio non vedo nemmeno quello che c'è di oggettivo. Mi volete... questo c'è il software, no? Ok, perfetto. Ringrazio davvero Marco Bilucagli, Alessandro Ferrini e Francesco Salvadori per essere stati qua con me. Insomma, grazie a voi. Gli appuntamenti ai prossimi a settembre, sì. Mi pare. Comunque il sito ogni internet. Aggiornamento sul sito internet. Per qualsiasi informazione possono rivolgersi alla segreteria, al nostro responsabile dell'area relazioni esterne, dottor Simone Melloni. Uomo in carne ed ossa. Uomo in carne ed ossa. Perfetto. Grazie davvero. Noi entriamo nella cronaca locale, lo facciamo con Leonardo Manera, ma ascoltate qua dove lo abbiamo scovato. Dal palcoscenico di Zelig a questo splendido paese dell'entroterra abruzzese Crecchio per girare una commedia horror. Ci vuoi dare qualche anticipazione su questo film? Che non è vero niente, non sono venuto qui per girare la commedia horror ma per partecipare a Maiella TV News, che era la cosa che desideravo da molto tempo e un desiderio che finalmente stasera si avvera e prende corpo qui a Crecchio. La tristezza invissuta come un valore negativo. Per il tuo personaggio traerai spunto dal cinema polacco? No, non c'entra nulla, questa appunto è una commedia horror che è un genere nuovo insomma per l'Italia e l'idea è di mettere insieme una storia, un thriller in qualche modo credibile per le famiglie e però anche un'atmosfera da commedia quindi divertente, c'è questo tentativo originale per l'Italia di mettere insieme queste due forme di cinema diverse. Leonardo Manera, ti abbiamo beccato su YouTube, era Maiella TV? Maiella TV è la mia televisione preferita. Video caricato ieri l'altro e quindi è proprio fresco e adesso lo caricheremo sulle nostre pagine in Facebook perché al di là del test, dell'intervista, molto divertente, sei truccato in un modo clamoroso e eri sul set del tuo film. Sì, di questa commedia horror con Francesco Pannofino e con me, e lì ero truccato credo da Pierrot, ma c'è anche una parte poi in cui divento un vero e proprio zombie, quindi mi sono spaventato anch'io vedendomi, parlando di fantasmi come prima, e quando mi hanno trasformato in zombie devo dire che un certo effetto l'ha fatto anche a me, che poi ero insomma quello che era lì per essere truccato. Ok, hai terminato le riprese, il film uscirà ottobre? No. Uscirà fino a ottobre, si chiama Una notte da paura. Perfetto. Ci saremo. Allora Leonardo, come sempre abbiamo estrapolato un po' di notizie dalla cronaca locale della settimana per commentarle con te. E partiamo con la prealpina, siamo a Busto Valle Olona. Questo è il titolo, l'incidente. L'oliva che fa male. La moglie del presidente della sezione penale scivola al supermercato su un'oliva, gamba fratturata. Questa secondo me è proprio una metafora della vita, cioè la dimostrazione che non sono le cose grandi che fanno i danni, ma sono le cose piccoline, quelle che tu trascuri perché non le vedi, dai poco peso, invece sono sempre lì a rovinarti la vita e alla fine sono quelle che creano i danni più gravi. Io sono andato a vivere da solo presto, avevo 19 anni, quando sono andato via da casa mia madre mi ha detto due cose. Mi ha detto ricordati di mettere la maglia di lana e attento alle olive. Sapeva? Lo sapeva. Tra l'altro l'oliva era... Sapeva che le cose piccole rovinano la vita. Era nel reparto animali quest'oliva, questo perché l'articolo poi va in profondità, no? Beh, vabbè, insomma. Passiamo invece alla Nuova Sardegna, siamo a Sassari. La disavventura di un abitante di Sassari, questo è il titolo... Multato a Pavia senza esserci mai stato. È importante, io no? Conosco abbastanza Pavia perché ho studiato giurisprudenza a Pavia. Devo dire che è una città in qualche modo magica, strana. Io ricordo, per esempio, quando studiavo a Pavia, dicevo di aver preso 30 gli esami senza averli mai dati. Quindi vedi che quel tipo di cose strane possono succedere. Ma la cosa che adesso succederà, credo, a questo povero abitante di Sassari, che sarà lui a dover dimostrare di non essere mai stato a Pavia, quindi quello che in giurisprudenza si chiama proprio inversione dell'onere della prova, quindi dovrà dimostrare di avere un alibi, di essere stato in quel momento da un'altra parte, magari per dire che era con l'amante, litigherà con la moglie per questo motivo, si lascerà, tutta la sua vita cambierà e magari andrà proprio a vivere a Pavia con una vigilanza, quindi ipoteticamente la sua vita potrebbe prendere anche questa direzione. Si manca l'oliva in tutto ciò. Mine vaganti. Eccoci qua ancora con Leonardo Manera. E Leonardo, rimaniamo sulla nuova Sardegna, ancora a Sassari. Venerdì 29 luglio il titolo: lezione di anatomia in 3D e il professore apre la testa, arrivata con lui dall'America. La prima cosa che viene a dire è: per fortuna che questo medico si occupava di testa e di non altre zone più a sud del corpo, diciamo. Però c'è anche da dire che è un medico scrupoloso, e c'è anche da dire che la testa effettivamente dagli scanner dell'aeroporto può passare. È vero. Perché può passare, perché tu non puoi avere i coltellini, non puoi avere le bottigliette di mezze minerali, però se tu vai con una testa non ti dicono nulla. A me è capitato anche qualche volta ogni tanto di viaggiare con una testa, e quindi onore a questo medico particolarmente scrupoloso, e anche alla clinica medica di Sassari, che peraltro mi salvò la vita anni fa quando mi ruppi la milza, e che colgo l'occasione per salutare. Ok, perfetto. Andiamo invece con due strani scippi. Il primo è la Gazzetta di Modena, che lo racconta, questo è il titolo: ladro in fuga bloccato da un podista di 74 anni, l'insegue, lo fa cadere dalla bici e riprende la borsa che le aveva rubato. Non è male. Non ci sono più i vecchi di una volta. Tu ti immaginavi i vecchi che stavano lì a giocare a carte al bar bevendo il bianchino, invece no, adesso questi anziani che corrono, soprattutto in questo periodo, stanno imparando a correre. Infatti poi si è scoperto che lui non stava facendo semplicemente podismo, ma stava correndo in banca a ritirare i titoli di Stato, vista la situazione del momento. Quindi adesso tutti gli anziani si stanno attrezzando per andare subito a ritirare più velocemente possibile i posti, e scipparli diventa pericoloso. Un altro scippo che insomma invece nasconde un velo di tristezza sotto, però fa sorridere. Quindi il Mattino di Napoli, questo è il titolo: scippo in via Leopardi a fuori grotta, la vittima è la madre che lo denuncia. Sì, e qui invece il vero problema è che ho saputo che a questo scippatore daranno gli arresti domiciliari e dovrà stare 6 mesi con la madre. Quindi prevedo delle liti furiose, nonostante, come si dice a Napoli, nonostante questi, i figli sono piezze core, quindi magari troveranno una forma di riconciliazione. Poi La Stampa invece di Novara, siamo ad Arona, e il titolo anche questo insomma fa sorridere: si perde durante una corsa campestre, podista ritrovato dopo 14 ore. E la prima cosa che ha detto è stata: come mi sono classificato? Però io ho fatto qualche volta in gioventù qualche corsa campestre, e devo dire che le frecce non sono mai chiarissime, perché sono sempre messe a un bivio dove non si capisce esattamente qual è la strada giusta che devi prendere, ti resta sempre un po' di dubbio. Allora faccio una proposta: siccome in giro per le strade ci sono tanti ausiliari del traffico pronti a dare multe, a volte anche eccessive, io prenderei qualche ausiliario e lo metterei dove ci sono le corse campestri a dare l'indicazione giusta. Spero che possa essere colta la mia indicazione, diciamo. Mentre le ultime due notizie le ho trovate sul Gazzettino di ieri e oggi. La prima: siamo a Badia Polesine, quindi in provincia di Rovigo. In prima pagina il titolo: Elisa Selvaggia, la ragazza acqua e sapone che fa strip a pagamento. A Badia Polesine il caso della giovane conosciuta da tutti che si esibisce su internet, ma dice il giornalista: attenzione, perché non è l'unica. Beh, dopo questa notizia io subito sono andato a cercare casa a Badia Polesine, perché l'idea mi attira molto. Ma poi ho anche scoperto che questa Selvaggia, per gli utenti, diciamo, dei suoi strip a Badia Polesine, ha anche fatto una fidati card con la quale si possono avere delle facilitazioni, dei premi. Per esempio, se tu sei un assiduo frequentatore di Selvaggia, con 100 punti vince uno strip personalizzato, con 200 punti un rapporto selvaggio appunto con Selvaggia, e con 1000 punti la massima espressione di intimità, cioè guardare la TV insieme sul divano. Che bello. Per quelli che volessero raggiungere, trasferitevi tutti a Badia Polesine. Chiudiamo invece col Gazzettino, ancora a Trieste però. Il titolo: un muro alto 3 metri in spiaggia per separare gli uomini dalle donne. È la storia ormai centenaria, credo, di questo bagno. È l'unico bagno italiano ancora in essere, con proprio diviso tra uomini e donne. E in più c'è la specifica, no? Perché ci sono alcune novità. Per esempio è gettonatissimo massimo pare da molti rabbini che girano l'Europa e vengono in questo bagno, perché appunto c'è possibilità di non farsi vedere dalle donne, e poi dai camionisti turchi che però poi si arrampicano sul muro per andare a vedere le donne nel bikini. Per quanto riguarda uomini e donne, io sono favorevole al muro perché è il massimo stimolante dell'erotismo, il fatto di vedere e non vedere, oppure di dover arrampicare per vedere, oppure guardare dal buco della serratura come nelle commedie sexy in Italia degli anni 70. Infatti io sono assolutamente favorevole a questo, e anche a casa mia, prima di essere, di convivere con quella che io definisco la mia paramoglie, conviviamo more usorio, diciamo, ecco, quando mi capitava in passato di invitare qualche ragazza a casa mia, io preferivo guardarla dal buco della serratura prima. Okay. Modificavo un po' i buchi della serratura, li facevo grandi come meloni, però prima preferivo guardare da lì. Quindi favorevole a questi espedienti per stimolare l'erotismo. Fantastico. Leonardo Manera, come sempre, il nostro viaggio nella cronaca locale. E Leonardo, invece, come saranno i tuoi viaggi nelle prossime settimane? Hai finito le riprese del film, adesso hai un po' di tournée? Beh, do tre date per la settimana prossima: sabato prossimo a Capurso, vicino a Bari, poi lunedì a Flaibano, vicino a Udine, e mercoledì a Edolo, in provincia di Brescia. Ok, ma in questa estate noi ci ritroveremo, quindi preparati, ok? Volentieri. Ciao Leonardo, grazie. Ciao. Ciao a tutti voi. Ciao ciao. Questo è Minevaganti, radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, se anche voi volete segnalarci notizie curiose della vostra cronaca locale. E qualcosa di curioso accadrà questa sera a Bologna, anche questo l'abbiamo scoperto sfogliando la cronaca locale, il resto del Carlino in particolare. Un'orchestra che arriva dalla Cina, credo sia la sua prima esibizione in Italia, che si chiuderà con qualcosa di particolare, cioè un'orchestra per e con iPod. Per capire quello che accadrà abbiamo con noi il direttore dell'Emilia Romagna Festival, Massimo Mercelli. Ciao Massimo. Salve, buonasera a tutti. Tutto pronto? Tutto pronto, stiamo provando e siamo sul palcoscenico bellissimo del Teatro Comunale di Bologna, in diretta per voi. Ecco, ma cosa accade? C'è un'orchestra importante? Un'orchestra importantissima, la Filarmonica Cinese di Anjou, un'orchestra di circa 100 elementi che farà un programma ponte fra culture con compositori europei e compositori cinesi, e come bis farà un omaggio a Louis Bacharov con una elaborazione del postino. Sì. E con un gruppo di iPad come solisti. E in che senso? E questi strumenti appunto imiteranno dei suoni campionati e svolgeranno il tema di questa composizione di Bacharov con l'accompagnamento di una grande orchestra sinfonica. Adesso ve li possiamo anche far sentire. Ok, nel senso che adesso ci fai ascoltare l'iPad con l'orchestra? Sì, questo è l'iPad senza orchestra, sentite? Sì, sì. Sentite? Sì, sì, noi benissimo. Molto bene. Nel senso che continuiamo a non capire, nel senso che è un'applicazione e quindi suonano uno strumento scaricato sull'iPad. Esatto, e gli altri tre iPad saranno l'accompagnamento della parte della base orchestrale insieme all'orchestra. E chi ha avuto questa idea? Io. Ah, ok. Che però, se ho capito bene, sei l'unico che non suona. Beh, faccio il direttore artistico di questo festival, sarebbe, può darsi anche che suoni, sì, non vediamo adesso quando finisce la prova, perché stiamo aspettando l'orchestra. Ok, cioè tu l'iPad e il tuo te lo sei portato dietro? Sì, sì, assolutamente. Non si sa mai. Inseparabile. No, tra l'altro, insomma, è molto più leggero l'iPad. Tu che strumento suoni solitamente? Io sono flautista. Flautista. Siamo lì come peso. Siamo lì, però un contrabbassista mi è molto più agile con l'iPad. Assolutamente. Ma è qualcosa di comunque di rivoluzionario. Immagino che il pubblico sarà anche un pubblico abituato comunque alla musica classica e anche alle ritualità. E come reagirà davanti a un iPad? Ah, questo ve lo sapremo dire alle 11:15. Okay. Ma il pubblico è molto elastico, è molto open mind, quindi sono sicuro che gradirà il pezzo, anche perché è molto bello. Ho capito, bene. E i cinesi già sanno tutto ciò o glielo spiegherete sul momento? No, loro sono molto preparati in questa materia qui. Ok, quindi sono avanti. E un'ultima domanda, Massimo, come si accorda un iPad? Ah, campionato con il A440 come il diapason. Okay. Non si accorda, è già pronto per l'uso. Sono gli altri che si accordano con lui. Fantastico. Ma sono lì, ce ne fai sentire un altro, proprio un altro 20, 10 ecco, secondi. Eccolo qui. Vai. Eccolo qui, questo è un altro campionamento. Thomas, suona ancora un po'. Thomas. Oh. Ecco, sentite, questo è un po' di campionamento. Sì, sì. Bene. Vabbè, grande idea. Complimenti Massimo per l'intuizione. E dacci ancora le coordinate dove accadrà tutto ciò. Teatro Comunale di Bologna, ore 21 di domenica 31 luglio. Perfetto, quindi questa sera ci sono ancora posti? Esatto. Bellissimo. Certo. Ok. Grazie davvero. Ciao Massimo, buon concerto. Ciao. Insomma, questo è Mine Vaganti, ci piace raccontare chi fa cose curiose, chi ama osare. Mine Vaganti. City, here I come. Yeah, I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. Got a lot of pretty women, and I'm gonna get me one. I'll be standing on the corner of 12th Street and Vine. I'll be swinging on the corner of 12th Street and Vine. With my Kansas City baby and a jug of Kansas City wine. Continua il nostro Coast to Coast anche musicale per accompagnare Alex Bellini, l'italiano che dalla Valtellina sta facendo questa massacrante corsa oltre 5.000 km da Los Angeles a New York, 70 tappe in 70 giorni da 70 km l'una più o meno. Lo seguiamo settimanalmente, non è facile collegarci, stiamo tentando di farlo e vedo che mi fanno segni negativi, ma lui sta correndo, il cellulare è quello che è, noi ci lamentiamo quando non prende in Italia, là siamo in mezzo ai deserti, alle grandi pianure. Nell'attesa, mentre lo cerchiamo, abbiamo però invitato il coach di Alex, che è appena tornato dagli Stati Uniti, ha corso con lui fino a due giorni fa, quindi è quello che ha le notizie più recenti e più aggiornate. Do il benvenuto a Luca Saccagno. Ciao Luca. Buongiorno a tutti, ciao Federico. Ciao. Ci puoi testimoniare tu, credo, in diretta le difficoltà di collegamento, vero, in questa corsa? Sì, anche... Certo. Abbiamo fatto 10 giorni insieme, io mi occupo nello specifico di quella che è la nutrizione e l'integrazione di Alex. Abbiamo corso insieme in questo caldo torrido e purtroppo i collegamenti vengono meno. E oggi, al termine della tappa di oggi, avrà fatto 3.088 chilometri, è la quinta settimana di corsa. Perché sei rientrato a casa? Sono rientrato a casa perché queste sono le mie vacanze, tra virgolette, quindi domani si continua. Era una verifica che andava fatta con Alex, e noi il lavoro l'abbiamo fatto prevalentemente prima, nell'organizzare, nel testare tutti gli ingredienti che servivano per portarlo prima di tutto sano alla partenza. Ma anche poi sano dopo... all'arrivo è importante. Sì, infatti, e poi dopo testare appunto che la macchina funzioni a dovere, che non ci siano problemi soprattutto gastrointestinali, che sono quelli che potrebbero bloccarlo. Ecco Luca, ma se tu adesso potessi fare una domanda in questo momento ad Alex Bellini, cosa gli chiederesti? Ti stai divertendo. Aspetta che glielo chiediamo. Ciao Alex! Ciao Federico, ciao Luca. Ti stai divertendo? Ma guarda, con Luca ne ho già parlato di questo. Il divertimento spesso lo si trova dove non si crede di poterlo trovare, ecco. Che dire, oggi è un'altra giornata di quelle calde che Luca ha potuto conoscere bene. C'è caldo, c'è umido, ce la prendiamo con calma perché nei prossimi giorni inizierà il mese di agosto, che sarà un mese abbastanza impegnativo, quindi oggi camminiamo un pochettino più rispetto al solito e ci gustiamo il paesaggio, i paesi che incontriamo sulla strada. 349-238-6666 come sempre per le vostre domande in diretta ad Alex Bellini. Alex, c'è una domanda che però tutti mi fanno poi durante la settimana, che è questa: ma mentre tu parli al telefono con noi, corri, cammini, ti fermi, ti fai dare un passaggio in auto, qual è la situazione? No, generalmente cerco di far coincidere il momento della telefonata con un pasto, quindi mi faccio qualche chilometro camminando e ogni tanto mi sgranocchio una mandorla o mi mangio un po' di uvetta e qualcosa del genere. Generalmente tendo a non volermi mai fermare, perché poi per ripartire è sempre dura, invece rimanendo sempre in movimento viene tutto più semplice. Ma fa piacere sapere che siamo il tuo momento di relax, insomma. Sì, esatto, il mio momento di pausa. Ok, Alex, dove sei oggi? In quale stato? Oggi ci troviamo da ormai 3 giorni nel Missouri, o come direbbero qua, Missouri. Sì. È un posto, è uno stato molto affascinante rispetto agli altri passati sinora, quello che ci sta regalando più sorprese, è più affascinante, una natura rigogliosa, si attraversano paesi che una volta devono essere stati gloriosi, paesi ormai abbandonati ma con un fascino particolare. In questo momento invece sto proprio camminando in fianco a una freeway, quindi sono tanti i camion che sentiti passare. Passeremo ancora 3 o 4 giorni qui, poi cambieremo stato di nuovo e vedremo cosa il futuro ci vorrà regalare. Hai fatto qualche incontro particolare questa settimana? Allora, incontri particolari no. Incontri particolari oggi questa settimana non ne abbiamo fatti, è stata una settimana molto impegnativa. Che cosa vi posso raccontare? Che non ho tanto da raccontare questa settimana. È stata una settimana così di passaggio anche per te. Sì, di passaggio, ma sì, è stata una settimana di passaggio. Sai, poi come in montagna sono le salite e le discese. Questa settimana è stato un momento di salita, un momento impegnativo. 40 giorni sono tanti che abbiamo già trascorso, un po' la fatica la stiamo accusando. E quindi cosa vuoi? Si cerca di ridurre al minimo l'energia, il consumo di energie, cercando di mantenerci concentrati su quello che facciamo. Arriveranno momenti sicuramente migliori. Ormai domani giriamo la pagina del calendario, troveremo agosto e da lì ormai l'arrivo sarà molto molto vicino. Mm-hmm. Abbiamo iniziato chiedendoti se ti stavi divertendo, ma detta così, cioè, ti stai anche un po' annoiando? No, annoiando no, o meglio, guarda, annoiando in un certo senso alcuni stati, per esempio l'Oklahoma, che come ti dicevo sembrava di essere in un oceano di terra bruciata dal sole, è stato uno stato molto noioso, di strade dritte. Federico, pensa che facevamo tappe da 70-80 chilometri senza una curva, quindi tu partivi la mattina e se prestavi attenzione in lontananza vedevi il punto dell'arrivo. Questo è abbastanza noioso perché le strade sono uniche, c'è un grandissimo traffico di mezzi pesanti, non c'è spazio sufficiente per camminare sulle strade, questo ci costringe tutte le volte che passa un camion a farci piccoli piccoli, altrimenti veniamo portati via. Questo devo dire sì, è un po' noioso. Certo. Alex, ricordiamo che in quanti siete rimasti a fare la corsa? Ah, siamo ancora in corsa in 8. In 8? E in 8 su 16 partiti. E avete momenti in comune? Cioè, nel senso, ci sono spazi per fare chiacchiere, per confrontarsi, anche al di là dell'impresa sportiva? Sì, guarda, ne abbiamo tutti molto bisogno. Ci sono, ed è forse la parte più divertente, quella che sulle proprie gambe ognuno è solitario come su una barca a remi. Ma poi c'è la possibilità di passare dei lunghi momenti, anche magari solo brevi momenti in cui ci si parla, ci si confronta. Pensa, veniamo da veramente tutti i quattro angoli del mondo, Giappone, Inghilterra, Stati Uniti, quindi è un grandissimo mix di culture, ed è l'occasione giusta questa per capire di più anche delle altre persone, le motivazioni, le storie che ci sono dietro. Qui in questa corsa non ce n'è uno normale, io forse sono quello più normale. Questo ti dice molto sul genere di persone che si incontrano qui, ed è proprio bello, si sente bene. No, qui scusa, abbiamo sorriso tutti perché insomma ti vogliamo bene, no? Abbiamo seguito le tue imprese, la stiamo seguendo tutti noi, siamo convinti che tu non sia completamente normale, c'è un briciolo di follia, c'è, e sentire dire da te che gli altri non sono normali vuol dire che sono personaggi perlomeno stravaganti. Federico, ti dico solo questo: c'è l'organizzatore che si chiama Serge Girard, è una persona molto nota, molto conosciuta sia in Francia che all'estero, che ha ormai 60 anni e pensa che sta organizzando al prossimo anno una corsa a piedi attorno al mondo che lo porterà in giro per 18 mesi correndo qualcosa come 40.000 chilometri. Io mi domando che genere di persona possa essere, no? Uno che ha passione di fare tutti questi chilometri di corsa, anche perché l'80% delle ore che passo, del tempo che passo in piedi, io lo passo guardando una striscia bianca in fianco alla strada. Io mi immagino farlo per 18 mesi, insomma, è veramente da diventare matti. Certo, e Alex, tua moglie sicuramente ci sta ascoltando e quindi tranquillizziamola, nel senso, ha invitato anche a te a fare questa corsa in giro per il mondo? Federico, non ti ho sentito. No, mi chiedevo se sta cercando di coinvolgerti in questa corsa intorno al mondo? No, okay. No, mi sta coinvolgendo, l'ho ammirato, l'ho ascoltato con grande ammirazione, ma non sono cose che possono fare per me queste. Va bene, Alex, raccontaci i prossimi giorni, poi ti lasciamo correre, perché insomma il relax poi è giusto che duri qualche minuto, non è che ci devi prendere l'abitudine. Cosa ti aspetta questa settimana? Allora, questa settimana mi aspettano due giornate molto tranquille. Oggi è una giornata, ormai stiamo correndo da 6 ore e mezza e ancora in forse 3 ore e mezza arriveremo all'arrivo. Poi due giorni veramente che possiamo considerarli di grande relax, perché faremo 49-45 chilometri e poi con agosto tutta in discesa, tutta a grande velocità con medie giornaliere molto elevate. Perfetto. E poi a metà agosto supereremo gli Appalachi, sai, quella catena montuosa americana, no? Sì. Quindi lì ci sarà da divertirsi, perché si tornerà arrampicare in montagna, una cosa che ci piace molto, no? Insomma, ti senti un po' a casa. Alex, c'è ancora Luca qua con noi, hai qualcosa da chiedergli? Hai bisogno di qualche dritta al volo? No, ci siamo consultati a lungo in quei giorni che è stato qua, ho avuto piacere di vederlo e speriamo di rivederci presto. Perfetto, ciao Alex, buona settimana. Ciao Alex, buona settimana a voi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Luca, grazie anche a te per averci dato un assaggio di quello che hai visto correndo con Alex. Ricordiamo il sito alexbellini.it per seguire la corsa giorno per giorno, più o meno, insomma gli aggiornamenti non sono facilissimi, però ci sono delle bellissime foto che danno veramente l'idea e il sapore di quello che sta accadendo al di là dell'oceano. City, here I come. Yeah, I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. Got a lot of pretty women and I'm gonna get me one. Ci siamo fatti un po' così prendere dal clima della musica country statunitense, ma torniamo a noi. Lo sapete perché è un'altra cosa che ci piace fare a Mine Vaganti in ogni puntata, andare a cercare gli eventi più curiosi. Possiamo usare anche la parola bizzarro, perché a volte apparentemente è un qualcosa di bizzarro, poi vai a scavare e scopri che sotto c'è ben altro, che vengono pubblicati su Facebook, dove vengo direttamente invitato. E in questo momento stiamo andando precisamente a Cisternino, siamo in provincia di Brindisi, dove fra pochi minuti ci sarà un concerto per piante. E per capire bene quello che sta accadendo abbiamo invitato uno dei protagonisti di questo bizzarro appuntamento, appunto bizzarro concedetemelo, e diamo il benvenuto a Salvatore Sanfilippo. Ciao Salvatore. Salve, buongiorno a tutti. Siete pronti? Siete pronti? Sì, siamo pronti. Benissimo. Io mi chiamo Camaleonte, preferire. Infatti, chiedo scusa, dovevo chiederti se usare il nome d'arte, che è Camaleonte Oleandro, giusto? Sì. Perfetto. Sì, tu fai parte di Damanur. Damanur, sì. Come la definiamo Damanur? Che anche qui c'è sempre... Damanur è una federazione di comunità. Ok. Si trova in Piemonte, vicino a Torino. Esatto, tu vivi lì in Piemonte o avete anche distaccato? Io vivo in Montesella, sì, in Piemonte. Sì. In Piemonte, perfetto. Ci hanno invitato qui a Cisternino a fare questo concerto delle piante che facciamo già da tanti anni, comunque in varie parti d'Italia, soprattutto da noi, nei boschi nostri. Allora hanno conosciuto questo evento, le persone qui di Cisternino ci hanno invitato a fare questa performance dal vivo con le nostre piante. Ok, e Salvatore, ma torno un attimo al nome, scusami, perché è una cosa curiosa, soprattutto per chi magari non vi conosce, tipo me in particolare. Cioè, il nome ve lo potete scegliere, viene scelto a seconda... Certo, è una scelta personale in base a caratteristiche che uno pensa di avere o vorrebbe avere, quindi una scelta di gioco, diciamo, un nome di gioco, di battaglia. Ho capito. Così possiamo dire. E può essere anche spiegato, nel senso, tu perché hai scelto Camaleonte, per esempio? Diciamo che mi considero abbastanza adattabile, mi piace adattarmi sempre a situazioni nuove, quindi il camaleonte è il tipico animale adattabile che si trasforma. Ecco. Oh, ok, e l'oleandro? L'oleandro, siccome sono di origini siciliane, l'oleandro è una pianta tipica mediterranea, allora l'ho scelta per questo. Mine Vaganti. Alle 19 inizierà questo particolare concerto, siamo a Cisternino in provincia di Brindisi, con noi Camaleonte Oleandro. Camaleonte, cosa vuol dire suonare o far suonare le piante? Allora, in pratica si tratta di un sistema che utilizza le apparecchiature elettroniche, che si basa sul principio che ogni essere vivente ha un'attività elettrica collegata, connaturata con la vita. Sì. Anche noi abbiamo un'attività elettrica sulla nostra pelle che collegate con le emozioni, con la salute, con reazioni più o meno inconsce che ci possono essere. Tanti anni fa, circa 30 anni fa, come Damanur, abbiamo cominciato questi studi su queste reazioni involontarie umane, diciamo, e a un certo punto abbiamo fatto delle apparecchiature adattate alle piante, perché anche le piante di fatto hanno una loro attività elettrica, e si è voluto studiare se anche loro reagivano a particolari stimoli, a eventi, situazioni varie. Si è visto che effettivamente hanno una loro reattività, reagiscono, riconoscono le persone amiche, hanno reazioni particolari a vari eventi, in particolare sono molto sensibili alle interruzioni di vita, se capita di mangiare la lattuga davanti alle piante o di uccidere qualche zanzara, loro vanno in stato di shock, quindi come se fossero collegati un po'. Con okay. Tutti gli esseri viventi. Mm-hmm. Quindi stati vari studi. E queste reazioni che voi avete studiato producono sonorità? Allora, quello che è quell'applicazione della musica delle piante, quello che vediamo qui noi, è un'applicazione di tipo artistico, diciamo, dove con un principio simile a quello che è appunto la lettura dei segnali elettrici della pianta, le variazioni di potenziale elettrico tra foglia e radice in particolare, c'è un'apparecchiatura che traduce queste variazioni in note attraverso appunto un sintetizzatore musicale. Okay. Quindi, diciamo, dal punto di vista elettronico la pianta può suonare un violino, una chitarra, un pianoforte, un qualunque tipo di strumento, e quando mettiamo poi più piante insieme si creano questi terzetti, quartetti, quintetti di piante che incrociano le loro melodie e i loro suoni creando dei concerti abbastanza suggestivi, molto, molto particolari. Assolutamente. Tu non sei tu quindi a decidere cosa suonare, decidono loro, scelgono. Assolutamente no, sono le piante che istante per istante, volta per volta, fanno delle musiche diverse, delle melodie diverse, e anche in base a quello che possono provare, quello che possono sentire dall'ambiente o di loro iniziative. Quindi. Ecco, ma e va bene qualsiasi pianta o tu sei arrivato lì con le tue piante? Io ho portato due mie piante addestrate, diciamo che l'esperienza per la pianta conta, sono piante che usiamo da tempo, ed è qui si vanno a istruire le piante locali. Si è visto che mettendo vicine una pianta esperta con una pianta nuova, in pochi minuti, una ventina di minuti, gli passa questa abilità, quindi riusciamo ad addestrare anche alberi secolari con una piantina piccola. Adesso qui l'addestramento della pianta è un po' curioso come concetto, però si fa. Puoi imparare dei comportamenti, dei comportamenti. Ho capito. Ma puoi farci ascoltare qualcosa? Nel senso, sì, adesso siamo qui preparando. Qual è la... un attimo tutta. Che pianta è in particolare? Non tanto. Ecco, adesso facciamo sentire quello che in questo momento stanno facendo. Che piante sono? Sono quattro piante, c'è cioè un ciclamino, un biancospino, un'ortensia e una pianta brasiliana che si chiama Panache, Perilla Fructations brasiliana. Adesso mi metto vicino alle casse e sentite. Perfetto. Si sente? Si sente benissimo, insomma, un po' dietro le quinte di questo concerto, e insomma, suggestivo, che è l'aggettivo che hai utilizzato prima, sicuramente è azzeccato, perché insomma sono comunque suoni che ti prendono. Poi tutto quello che c'è dietro, cioè, è particolare, va anche visto, no, da vedere deve essere, cioè non si vede niente, se non le piante. Si vede tutto, si vede tutto. Appunto c'è questo tavolo imbandito di apparecchiature con sopra, con accanto le piante che suoneranno. Tra l'altro poi saranno accompagnate anche da musicisti umani qui, sia addestrati, esperti, okay, che sono capaci di dialogare poi con le piante. La musica diventa questa forma di dialogo emozionale, la musica è una cosa già magica per i fatti suoi, è un linguaggio universale, quindi si vede che le piante dialogano con gli umani, riescono a seguire e anche a imitare quelle che sono le melodie che fanno i musicisti. Quindi è un vero dialogo musicale che si viene a creare. Grazie davvero, Camaleonte, per averci dato questo assaggio di quello che succederà fra pochissimo. Poi hai un sito da dare per chi volesse informazioni, per chi volesse seguire i prossimi concerti, sì? www.damanur.it. Perfetto, grazie davvero. Grazie a voi. Ciao. E abbiamo fatto musica. Salvatore, che ne pensi di un quartetto di piante per suonare al tuo matrimonio? Dimitri, scusa, ho sbagliato. Dimitri. Ciao Federico. Scusa, ciao. Dimitri, ciao. Ho fatto confusione con i nomi. Ti volevo proporre un quartetto di piante per suonare al tuo matrimonio. E guarda, potrebbe essere interessante, perché no? Diciamo, perché? Tra le cose innovative potrebbe starci. Ok. Allora, chiudiamo questa puntata con un'ideona. L'ideona l'hanno avuta Dimitri Tosi e la futura moglie Lucia Murabito? Sì, Murabito, perfetto. Un'idea che avete scopiazzato, quindi possiamo dirlo, perché credo che qualcosa di simile sia stato già fatto. Il titolo del sito, il nome del loro sito è Nozze con Sponsor in Sicilia.it e racconta tutto, cioè voi volete sposare, non avete tanti soldi, avete deciso di farvi sponsorizzare, giusto? Esatto, sì, già abbiamo fissato la data delle nozze, che è il 30 aprile 2012, sì. L'idea era proprio realizzare questo sogno. Per realizzare questo sogno purtroppo ci vogliono tanti soldini, però sentendo qua e là, cercando, vedendo, abbiamo scoperto che in tutta Europa da tanti anni si usa il farsi sponsorizzare le nozze. Abbiamo realizzato ad hoc appunto il sito internet che poco fa ricordavi, sì. Dove pubblicizziamo le aziende che in un modo o nell'altro ci aiutano a realizzare questo sogno. Ecco, ma questo in pratica cosa significa? Cioè tu avrai un logo di una macelleria sul tuo abito? No.

Dimitri, e invece no. E in bocca al lupo. Allora, nostre con sponsor in sicilia.it è il sito. In bocca al lupo a te e alla futura moglie Lucia. Beh, buon matrimonio con sponsor. Noi lo sponsorizziamo così, insomma, almeno idealmente, avendo dato voce. Ciao, ciao. Grazie, Federico. Un ciao a tutti gli amici di Mini Vacanze. Allora, ok, e noi chiudiamo la puntata di oggi. Un grazie a Margherita Ina e a Claudia Riciferi, che con me l'hanno scritta. Laura Vanossi oggi in assistenza. Carmen Lauricella, la parte tecnica. Voi, come sempre, in ascolto. Da domani la puntata sarà in podcast sul nostro sito radio24.it. Ancora ciao da Federico Taddia.